1.298.000 ragazzi, anzi bambini, in questo caso tra i 6 e i 10 anni, hanno letto un libro nel 2007. Diventano 1.340.000 tra gli 11 e i 14 anni e sono invece 999.000 tra i 15 e i 17 anni. Allora ne parliamo con Martino Montanarini, che è amministratore delegato del gruppo Giunti. Buongiorno. Buongiorno. Allora, dottor Montanarini, Giunti punta tradizionalmente sui giovani, direi con soddisfazione. Pochi giorni fa avete annunciato l'acquisizione del 60% di Motta Junior, con quale avete rafforzato la vostra posizione di leader nel settore. Ci dia un'idea, quanto vale questo mercato per voi? Ma dunque, questo mercato per noi è molto importante all'interno del nostro gruppo. Per darle, diciamo così, anche un'idea quantitativa e qualche dato, diciamo così, noi abbiamo realizzato nel 2007 circa 52 milioni di euro di vendite nel settore bambini e ragazzi su circa 250 milioni di euro complessivi che fa il nostro gruppo, quindi diciamo così una quota molto significativa dei nostri ricavi va verso, diciamo così, il comparto appunto dei bambini e dei ragazzi. A questo poi vanno aggiunti circa altri 30 milioni che realizziamo nella scuola. Infatti Giunti Scuola è un vittore leader nella scuola elementare con una quota di circa il 20% e appunto fra scolastici, cioè di testi di adozione e parascolastico, vanno aggiunti altri circa 30 milioni, quindi diciamo così una quota estremamente significativa nei nostri ricavi complessivi, che è testimoniata anche sul versante, diciamo, del retail. Infatti diciamo così la nostra catena di librerie, le Giunti al Punto, hanno una quota di vendite di libri per bambini e per ragazzi che sfiora il 25% delle vendite complessive, laddove il dato, diciamo così, nazionale si attesta intorno al 14%, per cui diciamo così questo è proprio un segnale dell'importanza che noi attribuiamo a questo settore, dedicando anche nelle nostre librerie uno spazio, diciamo, molto superiore a quello che viene normalmente dedicato all'interno degli altri canali di vendita. Ecco, questo proprio perché noi pensiamo che occorre molto lavorare su bambini e sui ragazzi per creare, diciamo così, i lettori di domani. Ecco, e da sempre il nostro gruppo, dalla pubblicazione di Pinocchio un po', diciamo, ha avuto in questo ambito un focus molto particolare, diciamo. Oggi ha aperto i battenti la fiera a Bologna, abbiamo detto è una delle più importanti del mondo, ma la questione che è successiva che vorrei porle, abbiamo sentito i ragazzi italiani, i bambini italiani in realtà leggono, ma quanto rispetto ai loro coetanei stranieri, quanto vale in assoluto il mercato dell'editoria giovanile rispetto a quello dell'editoria per adulti? Dunque, guardi, allora, per quanto riguarda la lettura è difficile dare una risposta precisa di quanto leggono i nostri ragazzi rispetto a quelli stranieri, perché non esistono, diciamo così, dei dati ufficiali confrontabili sulla lettura, nemmeno per quanto riguarda la lettura, diciamo così, degli adulti e tantomeno, diciamo così, per quello che riguarda i ragazzi, diciamo così. Possiamo desumere da alcuni elementi che i bambini e i ragazzi italiani leggono meno dei loro coetanei europei, diciamo così, così come fanno anche i loro genitori d'altra parte. Noi abbiamo, diciamo così, per quanto riguarda la lettura, un dato che ci dice che, diciamo, nella fascia 6-10 anni circa il 46% dei bambini legge almeno un libro, e che è una percentuale che si alza quando passiamo alla fascia 11-14, arriviamo circa al 60%, per poi arrivare al dato sconfortante che è intorno al 38% gradualmente, che è quello della lettura degli adulti. Purtroppo è un dato che negli ultimi 2 anni ha perso quasi 5 punti, per cui insomma è un dato purtroppo quello della lettura in Italia in calo. Quindi a 14 anni di fatto inizia la frenata, si legge di meno. A 14 anni di fatto inizia la frenata e si va verso appunto quel dato della lettura per gli adulti che purtroppo, anzi, a fronte di un leggero aumento che avevamo verificato, che si era verificato fino al 2005, viceversa poi dal 2005 al 2007, gli ultimi dati che abbiamo sono quelli appunto del 2007, c'è stata un'ulteriore viceversa frenata. E d'altra parte anche, diciamo così, il dato complessivo della spesa pro capite, diciamo così, in Europa, questo invece è un dato disponibile ci vede buoni ultimi rispetto ai paesi con noi più confrontabili. In Italia c'è una spesa pro capite sul libro di 64 euro l'anno circa, contro i 185 della Germania, i 120 dell'Inghilterra, quasi 100 della Spagna, di oltre 80 della Francia, per cui insomma, siamo purtroppo su questi dati penalizzati, ecco, diciamo. Quindi si spende meno per leggere. Si spende meno per leggere, questo particolarmente sui bambini. Poi diciamo così, il mercato, la seconda parte della domanda, quanto vale questo mercato anche rispetto all'editoria per adulti? Ma il mercato del libro per bambini viene stimato in Italia intorno ai 200 milioni di euro, su circa 1.400.000.000 complessivi dell'editoria, e quindi come dicevo prima siamo intorno al 14% del complessivo. È un dato a nostro avviso che nonostante questo, che negli ultimi anni sicuramente l'interesse sull'editoria per ragazzi si è aumentato, sono cresciuti sicuramente gli editori che si sono avvicinati a questo settore, abbiamo più editori che pubblicano libri per bambini, sono cresciuti i numeri di titoli, però a nostro avviso è ancora insufficiente la spinta che anche di proposta verso questo comparto, perché occorre lavorare con più determinazione per creare e mantenere soprattutto poi questi giovani lettori. Ecco. Mantenere, effettivamente sembra un elemento centrale questo. Allora saluto anche Beatrice Fini, che è vice direttore editoriale di Giunti Editore, la ringrazio di essere con noi. Buongiorno. Buongiorno a lei. Abbiamo sentito insomma come i 14 anni siano un'età critica, un'età che in realtà come dire, tende ad avere poca relazione con quello che viene visto spesso come il grande nemico dei libri, cioè i gadget elettronici. Sappiamo, almeno l'esperienza ci indica, che i gadget elettronici entrano nelle case prima dei 14 anni. Insomma, che cosa accade secondo lei in questa fase? E ancora c'è spazio per gli eroi di carta, insomma gli eroi alla Tom Sawyer, per dare un'indicazione, che poi magari non esistono nel mondo dell'elettronica? C'è dunque spazio per questo genere di eroi nel mondo d'oggi? Io penso di sì, diciamo sicuramente la presenza dei videogadget nella quotidianità dei ragazzi è molto pesante, non è comunque l'unico interesse, ovviamente ci sono anche altri strumenti di comunicazione, la rete, la TV, l'iPod, che rappresentano interessi importanti. Semmai è doveroso dire, diciamo, che l'abbondanza dell'offerta genera senz'altro confusione, a volte anche superficialità. Gli adulti e la scuola non sono sempre in grado, diciamo, di indirizzare verso il verso giusto. Non dimentichiamoci, come diceva appunto anche Montanarini, che i dati sconfortanti sulla lettura non sono tanto quelli relativi ai bambini e agli adolescenti, ma piuttosto quelli che si riferiscono agli adulti. E quindi, diciamo, solo investendo sui ragazzi possiamo aspirare poi ad avere dei lettori forti adulti, e quindi è delicato, è molto importante, diciamo, la scelta dei libri a loro destinati. E innanzitutto dobbiamo, secondo me, parlare con il loro linguaggio, affrontare la loro realtà. E ad esempio un modo per farli dialogare correttamente con il mondo televisivo, per quanto riguarda il nostro gruppo, è stato quello di pubblicare dei libri o delle collane che fossero legate ai beniamini della televisione, cioè quelli che sono i loro miti, per cui abbiamo declinato su diverse fasce di età i libri come quelli della Malevisione, delle Mermaid Melody, di Tartaruga Ninja e di Digimon per i bambini piccoli, e quelli invece di Dragon Ball o gli Atlanti del Sapere di Voyager, appunto legati alla trasmissione di divulgazione di Rai 2, proprio destinati agli adolescenti. Quindi e insomma da Pinocchio a Gian Burrasca, che fanno parte della vostra tradizione, ha comunque dei modelli che sono orientati alla televisione, non c'è alternativa? Non soltanto, diciamo, i protagonisti in realtà sono sempre i bambini, i ragazzi, cioè coloro che in qualche modo rappresentano la parte vitale, la passione della scoperta, la voglia di migliorare il mondo e fare giustizia. Quindi se noi partiamo da Pinocchio, che lottava, diciamo, per avere un'anima, Gian Burrasca che rivendicava i diritti dell'infanzia, oggi ovviamente sono mutate le condizioni, però i personaggi mitici sono ad esempio Nina, che è una piccola alchimista che lotta contro le forze del male per liberare il pensiero dei bambini, oppure Geno, che invece è un adolescente che attraverso il potenziamento dell'energia mentale risolve dei problemi insormontabili. I più grandi protagonisti sono sempre degli adolescenti, sono calati però nella vita reale, con meno avventura, meno, diciamo, escamotage soprannaturali, che ancora sono più destinati ai bambini piccoli, ma con problematiche esistenziali, cioè legate alla socialità, al mondo della scuola, alla famiglia e così diventano protagonisti ad esempio dei fratelli nel romanzo che abbiamo appena pubblicato, Oh Boy, della francese Muriel. Sono tre orfani in cerca di un tutore e la scelta a quel punto si pone tra una sorellastra fredda e calcolatrice e invece un fratellastro omosessuale un po' squinternato, e ovviamente anche qui vincerà l'amore, la sensibilità, le emozioni che continuano ad essere le protagoniste incontrastate di tutti i romanzi. Ecco, lei ha citato il tema dell'omosessualità che entra dunque nella letteratura giovanile. In passato eravamo abituati a degli schemi piuttosto rigidi che in due parole si potevano anche definire spesso maschilisti. Come cambiano le storie? Un aspetto ce l'ha appena detto, ma esiste proprio una nuova modalità di scrivere i racconti, le fiabe per i ragazzi e i bambini? Ma non credo che esista una modalità precisa, cioè in realtà l'importante è che in qualche modo la letteratura, anche quella per i più piccoli, evolva insieme alla società. E quindi si scenda sul loro stesso terreno, a quel punto l'accoglienza è straordinaria, cioè i ragazzi rispondono molto. Quindi attingere dalla realtà. Dalla realtà, sì, assolutamente. La ringrazio. Allora, un'ultima domanda che vorrei porre a Martino Montanarini. Come dicevamo un momento fa, insomma, il vero problema non è tanto la comparazione dei dati di lettura dei ragazzi italiani rispetto a quelli europei, ma sono gli adulti. E quindi la domanda delle domande è: come contrastare la disaffezione per la lettura dilagante tra gli adulti? Alcuni interventi si possono fare, diciamo così, e sono stati anche tentati sul fronte dell'offerta, per esempio il fenomeno che a cui abbiamo assistito negli scorsi anni degli allegati ai quotidiani, per esempio, abbiamo visto delle vendite molto importanti di libri, ha dimostrato che, diciamo così, un'offerta di tipo diversa, attraverso un canale diverso, può attirare un pubblico anche molto importante in termini numerico verso il libro, che è un pubblico probabilmente di non frequentatori di librerie e forse anche di non lettori. Poi molti si interrogano se questi siano diventati effettivamente lettori o meno, però secondo me, a nostro avviso, è sicuramente positivo che tanti si siano comunque avvicinati al libro. Però, diciamo così, detto questo, che è un problema più, diciamo così, distributivo e tecnico di canali, nella realtà occorre destinare tutti i nostri sforzi e tutte le energie proprio sui giovani, cioè non vale, a mio avviso, tanto la pena concentrarsi in azioni volte a fare diventare gli adulti dei lettori, perché credo che sarà molto difficile avere dei risultati significativi su questo versante. Viceversa, occorrerebbe concentrare gli sforzi proprio sui giovani affinché acquisiscono questo divertimento e questa passione per il libro e per la lettura, in maniera che poi, appunto, di non perderli per la strada. In questo hanno un ruolo fondamentale gli editori, creando delle storie e dei libri che sappiano appassionare i giovani lettori. In questo ha un ruolo fondamentale la scuola, perché chiaramente ha un ruolo determinante nel indirizzare alla lettura e nel creare questo divertimento nella lettura, che è più faticoso da costruire, perché leggere sicuramente all'inizio è più faticoso che non mettersi passivamente davanti alla televisione, un videogioco, eccetera. Però una volta imparato, diciamo così, e fatto questo sforzo iniziale e acquisito un lettore, poi i dati ci dimostrano che questo lettore continuerà a leggere volentieri